quante volte non piove, c'è stazionaria. Lo dica, non so, radio bevo. Sì, se va bene, mi hai visto riparare un telefono, là. No, ma è sempre la mia la radio, sì, bella. Sì, però non è 60. Perché non è 60? No, insomma non è 60, la tua classica modulazione di 30 anni fa. Rimbombante, ecla, devi abbassare il macchinino. Ah, troppo rimbombante. Allora, successo, roba e glauca. Guarda, è andata lì. Così meglio va. Adesso sì. E va a strappare, capito? C'è una radio rimbombante quando è così. Perché sto usando, siccome ogni 2.430, non lo uso quasi mai. E quindi era regolato male, era regolato bene adesso. Sì signore. E il segnale com'è buono? Infatti non so. Non so quanti ce ne sono. Quanto è il segnale tu? Fai vedere. Vado a vedere. Sì, sul più sì. Sul più, cazzo, sempre sul più, c'ho lui l'ha detto. Tu ti chiamo di voi, a due, secondo la radio mai arrivare fino a 9.10, sul più sì adesso. Sul più del 3, quindi è più di 9.10. Ah, non lo so quanto è, sul più dovrebbe essere 9.25, quasi 9.30, se ne so. Ci vuoi mandare una foto, forse un video. Assolutamente. E la tena per i quante? Ci sto per capire la... che potenza devo usare con questa radio. 9.5 qua 9.5 arrivi. Sì, capito? Che vedete questo signore? Non sto usando il superstar. Ma sto usando quello professionale. Cazzo, sono 9.5 arrivo. Bella vina giovata. Ebbe da bene e vatto. L'antenna bassa c'ho qua. Cazzo. Lo sai, no? Che ricevo di meno. Raga, mi puni l'antenna mamma e vediamo un po'. Io penso. Va bene. Non problema. Claudio, ma gli è arrivata tua figlia il messaggio dalla TS? Ah, cos'è? La sera di domani poi lo fa pagamento. 60 euro, ce l'ho tra le palle. Beh, vabbè, mi è arrivato il messaggio da TS di fare, vabbè, allora c'è scritto, se sono ancora malato, cioè che sto male, vengono loro, però se sono che sto bene, praticamente dovrei farmelo io, anche quello, l'altro, dai, quello che si fa normalmente. Sì, quello molecolare. E allora mi ha mandato un messaggio. Quando sarà possibile la chiameremo per fare il tampone molecolare, sì. Maria deve rientrare a lavorare domani mattina, va e se lo fa a pagamento. Così se è negativa rientra a lavoro, cazzo che è un casino, no? Ve ne vai a dirlo. Beh, anch'io ti aspettano che sia negativo, speriamo poi, andando al luni, cro, ma è venerdì, il bove sabato, domenica è luni, cro, 10:30. Vabbè, ma lì è prima di te a casa, quindi sicuramente è così. Vabbè. Cosa ti dico, aspettiamo, non so cosa dirti, è un casino, c'è cosa e basta. È un casotto sì, però quelli che l'hanno preso sono più furti degli altri, perché hanno già gli anticorpi, hai capito com'è il discorso? Non so, infatti adesso c'è gli anticorpi, non gli fa più nulla. Va bene. Ma stavo dicendo, e comunque intanto la prossima settimana, se non questa, saremo in zona arancione. 1500 casi in 24 ore. È un macello, non ne venivo vincitori da chissà di grazia che ci è capitata. Cosa vi dico, Antonio? Non so, io ti dico solo che ci sono veramente tutti gli ospedali della Sardegna intasati, è un casino, siamo peggio di prima, quindi le restrizioni ci saranno sicuramente. E io ero al Conti stamattina a fare un RX, sta funzionando il Conti? Sì, il Conti sta funzionando, per fare una radiografia sono andato, che me l'ha chiesto al cardiologo. Allora, un casino, già lo dico, non lo so, non lo saccio. così non basta. Siamo nella merda, mi sa. Ha detto la TV. Rai 3, Videolina e tutti. Che questa settimana al 90% passeremo direttamente in arancione. Quindi sarà un bello casino. Quindi nuovamente con tutti i casini, tra le restrizioni, tra i dosi, qua, veramente, non ne vogliamo bere, boh, agio compreso, non ne vogliamo bere, boh. Vabbè, siamo qua comunque, ci aggiorniamo dopo, mi ha ancora troppo vizio, basta la radio, se no, poi passa la serata e siamo tutta la sera qua, va bene, vediamo se entra qualcuno dopo, siamo qua. Comunque adesso la radio è a posto, la lascio stare regolata così, Natalia, infatti sono una trentina, 25, 30. Cazzo, no, chiamano di là, a 5.25. E chi sta chiamando? No, c'è il volume a te, lui. A Marco. Sta chiamando a me? TFB è un gioco. Chi le chiama? Basso basso ti dicevo, Nico. Adesso sei un po' più forte. E ho capito, Nico. Tutto bene, da, mi devo piazzare l'antenna, mi devo piazzare nuova, perché questa qui quando entra acqua mi riempie la bobina e mi manda tutto in corto, capito? Mi servono le stazionarie a 2,5, ce l'ho già qui, me l'ho comprata la Game Master, questa è senza radiali e senza nulla, praticamente è un dipolo verticale, capito? Bellissima come antenna. No, sul tetto, la piazzo sul tetto, devo metterla 4 metri più in alto di come adesso, perché c'ho già il palo da 4 metri, però questa la butto giù e metto l'altra, questa qui è rotta l'antenna, dai, entra acqua e, no, e quando a svuotarsi ce ne vuole, adesso questa qui la butto giù appena c'ho tempo e metto l'altra, capito? Sì, va bene Nico, ti lascio un attimo che sto facendo una cosa. Ciao Nicola, alle prossime. Prova, prova, 1, 2, 3, lascia vedere, vediamo un po'. Ecco. Lo sento a tratti, boh. Forse fosse dovuto dall'antenna. E c'è però la possibilità, ma la cortuna. Ma la cambiano. E basta, ce l'ha l'antenna Claudio. Adesso c'è quella che mi ha dato tutti i ricordi, si è fatta, e adesso c'è andato quella, ma se non è, ma c'è qualche problema. Aspetta, lui dice, buon conduttore a voi, se no è un casotto. Sì, appena la tariga, ti preoccupare, sono i nocchi. Aspettando la pizza. Luca, ma non stanno più parlando? Come si chiama l'altra? 7R, 7 Alfa, non so come, non ci arrivo io lì. R7, dov'è R7? Non lo so io, no. Ce l'ho nel ricevitore adesso e ho un accento a cercare. 145, 7, 8, 7, punto 5. Ah, quella di Walter? Quella di Walter, anche io, sì, quello è un punto ripetitore. E trovati, dai. Qua trovare c'è, quella è la frequenza. Sta parlando Domenico, che non è a Sassari a Oschiri, ma c'è il ponte attivo e poi c'è Walter. Io sono un attimo al telefono, aspetta. E qualcuno sta uscendo male, poi? Chi sta uscendo male? Io? No, là, no, no, fischiamo. Boh, cos'è fischia? Dove vedi fischia? Non so, io. Dove vedi fischia? Adesso non sta parlando nessuno. No, non lo so, là. Devo fischiare, non lo so. Quello ti arriva bene perché hai tiri il ponte, capito? Ti arriva benissimo. Andiamo bene, andiamo. Eccoci qua, di nuovo, sempre qua, sempre qua. Eccoci, bim bum bam, tre che ballai. Oh yeah. Mamma mia, come sto? Luca, Luca, Ariello, Luca, Luca, Luca, di Sassari, Luca? Vabbè, Bobolino, ci sei. Oh, oh, oh, oh, oh. Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova. Se ti dici che avvieni le mani a traslare a 5.25, allora. Perché sei traslato qua? Oh, io mi aspetto. E vabbè, cioè me lo prendo io. Scappa. Scappa oggi. Scorra. Questo è la giustizia, si avvide. Dico sempre, da bravi, da bravi, da bravi. Che non c'è gente stupida qua. Cosa di buona è traslata all'ingresso del ponte? Non so ma come va a funzionare i droni, se ti vuole traslare all'ingresso del ponte. Ma... Io mi lì, se che presto, ascolta e basta. Quando no, capito ogni tanto, però che tu arrivi bene, e ogni tanto arrivi tratteggiato. Dipende, tu c'hai l'antenna in gomma, quindi secondo come ti sposti non arriva, se c'è l'antenna fuori, allora va bene. C'è l'antenna fuori, tra. Ah, boh, io sono sempre 25 watt, se ti arrivi la radio a da 100 watt, dove lo dirò la zoscia. Però ti ascolto bene, se poi stasera c'era Salvatore, Salvatore va bene, arriva a bomba, di fronte a me. A parte che non lo sento bene, non arriva bene fate qua. Marco arriva bene, poi coso, quello, vabbè, adesso non mi ricordo il nome, quello, lavorava a scuola, là. Lavorava a scuola, ma Gianni te c'è. E a Gianni? No, Gianni lavorava a scuola, Gianni lavorava al ministero, Gianni lavorava al ministero via Carlo Felice. Mi senti? Aspetta un attimo, creativo ci voleva un cazzo. Sono un messaggio di un amico. Bisogna cercare l'antenna. E beh, cla, fisobu, non c'è più nessuno di là, no? Cosa? No. Guarda, non c'è più nessuno di là. Penso che siano sulle 7 alfa di nuovo. E il telesipo nelle torrenti. Sì, cazzo, io voglio 20 gradi qua con voi. Ah, cosa pensi? Ma giù mi atteso. Io ne ho una a 5.25, ne ho una a 4.33, 5.25. C'ho l'altra sulla R7 alfa. C'ho l'altra da un'altra parte. Ehi, un bel, che cosa ci vogliono sempre? Se vuoi essere attivo, se no una non basta. Ehi, mi sono bastato adesso là. Mi sembra di essere il signore. Una da Colombia e l'altra da Uschiri, capito? Ci vuole un po' di radio, un po'. Capito? Purtroppo è così. C'è la patente o che ci sta, ma da poi con antenne, cavo, radio, e poi ti basta così per un'altra radio, e lo so, è una spesa, non è molto il baracchino, ma il baracchino è buono, è fine, fine di inghibili, sì, anche lì già c'è spesa, non è che non c'è, però per dire, fai la radio che c'è più spesa. Adesso ci siamo spostati di nuovo a 5.25, adesso entra solo per la Fabrizia. Io ti dico, guarda, ne sta arrivando anche un'altra base, bibanda, della Icom, enorme, grande, quanto è un 440, così, capito, di quella strada lì, sempre VU da 100 watt però, perché 25 watt non bastano, altrimenti devi usare l'amplificatore, io c'ho anche l'amplificatore per le VU e per le U. Vivo un pacco di là, un pacco di là, o dirai, o se no ti conviene fare se lo più vuole. Adesso lo fa Fabrizio. Lo so, là. Vabbè, poi alla fine questi portatilini non si viene a nulla la ricezione, non è, non è che hanno un'ottima ricezione, mi sono uscito a Cumarazzo, perché stavo cercando qualcosa più serio, ma costicchiano 300, 400, no, per il momento non fa, ma forse più in là si vedrà. Ma certo che sì, aspetta, saluto a Fabrizio. Andiamo, vai, andiamo. E beh, di buono. E beh, pompetta. Beh, mi sono messo a posto il corso stasera, l'alimentatore, quindi sono tranquillo. E Bobo, ma ti porti, aspetta, ma ti porti un rumore forte dietro, troppo fuori, la situazione è quasi. E devo dire, già lo so anch'io. Io so già cosa ho fatto, lo facevo anche un rumoroso. Io ho messo un diodo, ma una resistenza. E lui va tranquillamente, piano piano, raffredda senza fare casino. Ce l'ho io a casa, so quella da GPC. Da 1500 ohm. Ma da 1500, da 100 ohm. Ho capito, aspetta, chi è che vuole entrare? Ah, sono io. Chi è che me la vuole entrare? Io sono, buonasera. Brutto buco. E io buco. Se me la vuole entrare, vuoi dire, non c'è un buco? No. E ne muoio, ne muoio. Capito? Non so, pensare che anche quello di Antonio fa rumore là dentro, la vera Antonio, lo confermi, quegli alimentatori cinesi. Fa rumore all'inizio, poi dopo già si basa. Adesso fra un po' diminuisce la velocità. Se boom prende già. Ho detto basta una resistenza e cala molto. L'ho fatto da quello che c'è la marina, è un bombo. È troppo rumoroso, fastidioso, mamma mia. Già mi ha fastidio il QRM, in più questa ventola, no? Questo è veramente un bombo. Adesso non mi ricordo se era da 100 ohm o 150 ohm, adesso non mi ricordo, ma l'ha detto Giulio o Fabrizio, adesso non mi ricordo. Vabbè. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Avanti, buon Bori, sto già a mezza azzurra, ma ti non vedi. Luca. Dimmi amico mio, è porto a Torres. Ma tu il cellulare non lo guardi mai. Il cellulare non lo guardi mai. Cosa è successo, perché? Ci ho mandato due messaggi. Cappa, buonasera anche a te. E allora? Tanto stamattina ti ho visto. E dove mi hai visto? Sei sicuro che ero io? No, c'è una motocarrozzella piena di bombole con baracchino. No, non sono io, no. Quello è Falcone. No, sono io, no. Noi ci abbiamo lo strada bianco. Chi è quello con la motocarrozzella al baracchino con l'antenna sul fianco? Falcone? So che no, non è lui. È quello di Vermote Grappa, sta tranquillo. Infatti l'ho visto lì, ma l'hai fatti molto. Luca! Ciao, in via Turati ce l'ha quello. Quello però hanno la 43 MHz. Ah, forse si su niente, Eugenio, dimmi le mani sul messaggio. su Messenger. A me, ma tu si sbaglia, non lascio i messaggi su Messenger. Poi si sbaglia account, aspetta un attimo. Guarda, hai visto tu, quelli di Viaturati ce l'hanno. Non ho messaggi più, c'ho ancora quello di. Di cose, il messaggio ti avevo mandato il numero di Franco. Non c'è niente. Guarda, ti scrivo adesso, aspetta. Tu ti ho mandato Lugariello, sei tu giusto? Sì, ma no, non lo uso quello, mandatemelo dove siamo amici. Oh, ma niente, ma di. C'hanno il mio account, quello personale, questo qua che uso tutt'ora, e cazzo ti mando i messaggi dall'altra parte. Andiamo qua. Luca, è vero. Vabbè, ero sotto casa tua. Ma sto a casa, eri. Vabbè, vabbè, non posso uscire, lo sai. Vabbè, ti ho scritto, ti sto rubando la manto qua. Dopo un po' ti ho scritto, ho fatto, adesso me la sto portando a casa. Oh yeah. Fiorentina, 3-2 contro Napoli. E vabbè, là, pazienza. Avanti, Bobolì. Kappa, comunque non ero io ce l'ho Frada Bianco, non ne abbiamo apparecchio in macchina, no? Sì, ho capito, no, Luca stavo dicendo, hai portato per caso fuori il cane? Due minuti, no? Fuori il cane l'ho portato verso le 6 e qualcosa. E allora Jerry, tu? Hai portato il cane fuori proprio 5 minuti veloci, così è. Esatto, ma tu lo vedi? Ma non mi hai visto ero in piedi lì, in quella piazzetta di fronte a casa tua, c'è una specie di piazzetta, così è. Ah, tu eri il padrone di quella macchina bianca? No, io ero in piedi, lì, stavo aspettando, avevo la mascherina, il cappello, il cappuccio, con un giubbotto rosso e nero. Oh, io ho visto un tipo che ha acceso il telecomando e ha acceso la macchina, le luci della macchina, tu vedi, no? No, ma tu avevi, cosa ne so, le Nike rosse? Che avevo? Avevi un paio di Nike rosse? Sì, ero io, sì. Ah, e tu e io ero lì in piedi, eravamo a 2 metri. Quando ci siamo, ti volevo chiamare poi, tu, se non è lui, forse uno ti figuri. Vabbè, tanto te cara me ne sono un'antenna, è la mia, non ne so altri, perciò sono io, capito? Vabbè, sapendo, intanto già avevo la mascherina, già avevo poco cazzo bene, mascherina, cuffietta, veniva freddo, e poi il freddo non le posso prendere, sono un casino. Vabbè, ma stai facendo il vaccino? Mia moglie stava facendo il vaccino. Ma tu abiti su o giù? Perché giù sono entrati due ragazzi, uno con la bicicletta e un altro ragazzino col cane. Sì, sotto. Ma allora uno di due è tuo fratello, oggi. Come mi disturba? Mi disturba la VHF, il baracchino. Va bene, dai, Luia. Una di schiena oggi, buh. Ma che ci devi fare, ma posso dorra quando finisce tanto il casino? Ti chiamo, dai. Eia, se non sto lavorando, buon volentieri. Eia, break, eh? Avanti il break. Ciao, buonasera a tutti. Quanti siamo? Eia, è entrato da lontano. Invece mi si lamenta da lontano. Ascolta un attimo, oggi, ma hai Emiliano perché non lo chiami? Dici che non l'hai chiamato, non l'hai tu che gli va vedendo, io lui pensava che te l'avevi venduto. Adesso a dire, Emiliano non ha gara, stai cantina, e in mansarda, adesso ho pensato che lo dico tutti i giorni. Oia. Ehi, va bene, dai, avanti Antonio. Kappa. Ebbene, allora, tutto a posto? Dai, si va, bisogna andare, bisogna pagare da Nanzi, sì, ma dai, diamo presto, eh. Kappa, pure nome. Su, che ci danzo va, travaglio, va. Magnato. Allora, finalmente a casa. Naggio il cattolo di bene, Naggio. Beh, certo, quando si lavora, è sempre così. Oggi mi hai fatto pure incazzare, ma ne hai fatto un po' verde, ma ne hai fatto arrabbiare pa ringazzarti. A che vanno troppo la mania di essere come ti dite, superiore, vane. E questa cosa a me mi date fastidio. Cioè, fa 10 minuti di ritardo, si può a rompere il cattore. La verità è colpa mia, però non è stesso nulla, cioè. Guarda che mi ha figli. Perché è un periodo che è un po' tutti, sono tutti quanti nervosi, sono tutti quanti chi su io, questa cosa. Dai, ma dai, ma un po' di game ti fa bene. Beh, ora proprio con di mani che c'ha l'autorità, panica, a me. Vabbè, quando mi catta di 5 minuti, divento più incazzato dentro. Non va bene incazzarsi, non va bene. Ciao Antonello. Ciao, no, guarda, io secondo me non conviene, perché tanto chiariri fai male sempre a te, non è che fai male all'altro, quindi governa a Saccaimi, lo so, governi male, va magari a dirlo così e fa, se no, anche noi magari un bel voce, uno dice, a chi non stesso a te, no, io so sempre di chi ti pare, bisogna mantenere pazienza e piegarti e andare avanti, perché tanto è inutile che io mi preoccupo, te, così molti altri a te ci vacca, non ha senso, capito? Cioè di pigliarsi la ma sì, la cosa grave ok, ma no, fa così dai. Grazie Briemmo, quanto è? Cosa vuoi fare? Cosa l'ha detto oggi? A giocare via, grazie Briemmo. No, non mi interessa brutto, tu ti verrà via. Veramente verrà via quanto vuoi, a me non mi frega niente, no, non mi piace, no. Oggi, anche allora io al bar. Guarda, tu chiedi, tu, la cosa che io raccomandavo a tutti, siediti, beviamo queste cose, se ti fa male, non bere, non mi fare adirare, non rompere le balle, non mi arruinare la vescia, perché lì è probabile che la cosa si giri male, si gira male perché non guardo in faccia a nessuno, ma fuori da quello non me ne frega niente, a me, cioè, lo sai, burba a travaglio, va così, no, che gara bucotta, gara bucruda, gatti di trago, ti dico così che non ti, e molte volte mi riguardo, mi viene da ridere, caglio, ma qua è gratta, però no, non più di tanto, anche se delle volte c'è da dirarsi, ma no, non mi interessa proprio, sono tutte altre cose che mi fanno dirare, no, mi fanno dirare per dire, se tu adesso mi parli di quel signore che è alto quante l'attributo dell'asino, allora è diverso, allora lì mi adiro e cazzo poi su, un po' mi altera, no, questa cosa, che ti sono massacrendo, insomma, con tutta la testa ragione, così sì, ma io mi prego con te, no, mi interessa proprio, ma non con te, no, con nessuno, no, non mi interessa, non, cioè proprio non ci metto neanche cosa, anche se più delle volte trovi, già lo sai come funziona, di quelle persone un po' gastriose, di questi bastoni che come tu ti metti lì attento a fare un bravo, non è che tu sei macchia ed intelligente, no, e che tu magari ragioni di più, al momento lasci perdere e dici vabbè ma vaffanculo, e lì magari prendono sopravvento e pensano di mangiarsi il mondo, ma non funziona così, no, a che ne viveremo tutti, cioè quando arriva una mano sul capo ben su che io capo lo possiamo fare a tutti e faccia certo non ti vuoi rompere le balle, comunque chi vera niente va da poca non metti le balle, fatti così è così, ha dunque un rapo di Pileni 4-2 con la Fiorentina, crocro. Ciao. No, vabbè, io secondo me non serve. Ma già tanti voci capitato che ti va di luce, ma tante cose, ma anche tanti anni fa, anche al baracchino, gente che entra via, che deve prendere balli, oppure parolacce e cose, e poi gli alusai come te si mettono in mezzo, a parlare, li interrompere, senza sapere negare e negare noi, no? E molte volte ti veniva quella cosa da rispondergli male, con minacce con cose, ma tutto sommato da via alla fine non si fa nulla, chi che tu, che ha tesoneri, e tu sei chi mangia in dividendo, non penso che sia via nulla, insomma, dai. Avanti, là. Non mi sono accorto, c'era Antonello sotto, ciao Antonello, buonasera, ben ascoltato. Non sento che sono perretto, non va a cenare. Era giusto per un saluto, infatti mi ha detto, ma fammi non avete, che io vado via a fammi. Va bene, dai, vi saluto, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato, ciao Luca, Antonio Bombo, come si è sentito, tutti c'era Eugenio, Antonio Bomponi, vabbè, un saluto circolare a tutti, dai, il cambio per Antonello, per Eugenio, insomma, riprendete voi, io vado a cenare, ciao. Ehi, ciao, ciao Cla, buona cena, figurati. Eugenio oggi intanto non deve mangiare, se gli avanza qualcosa poi vado, me la dai e me la mangio io, e così gli faccio anche un favore. No, Antone, mi sono preso la pizza, ho appena finito la pizza. Ti ha mandato un messaggio a Emiliano, poi lascia Billy. L'ha detto, ma Cucado è? Ma cosa Cucado? Perché quando a leggere i messaggi a Emiliano si fa notte. Bravo, no, io gli ho letto stasera e mi ha detto, non mi avete detto nulla, e tu mi hai detto, mi ha chiamato pure Eugenio. E mi ha detto, no, bastava dirlo, io pensavo che non ci stavate più entrando e cose, no, io già lo sai, mentre io purtroppo quando sono governo di cosa, mi si passa l'ora ed è un problema, e poi molte volte lo accendevo, non c'era nessuno, la verità però, non è che sono stato lì a ascoltare, a fare, ok, detto, vabbè, mi pongo a fare altro, mi si passa l'ora e ciccia. Però se sai che c'è qualcuno, due parole, le scambi, dai. Poi lascia la bugia Emiliana, lascialo perdere. Comunque, tanto non ti arrabbia tutti i digni. Ma tu, portami una bombola da 10, adesso, fa la cortesia. Se mi la dai che ci vuoi. Se non mi la reghi non sei un amico. Allora esitta la me. Anche nel buon nome da 15 anni, anzi, mi dice vieni tu, da 15 sono da 10. E di là, quindi? Cazzo, ma di là voi tu, ogni cosa di là, cazzo, la vita ha soldi, ma chi tu soldi, tampone soldi, medicina soldi, parcheggio soldi, tutto soldi, visite soldi, ma la campa ancora i soldi, cazzo. E anche io non rimbago. Tu, bravo G. Cos'è lui? Ha detto fai beneficenza. Allora, ci sei un amico. Non sai come fare la canzone, no? Ci sei un amico, a buffo di riva. E allora, vai, così, no? Tanto. Poi, può pagare, morire, c'è più tempo. Allora, scusate un attimo, due secondi, aspetta, tu. Un attimino, Due secondi. Oh. Allora, stazionari, se non parlo 1 e 1, se vado a modulare, 1 e 2, vanno bene, sì. A voglia. Fai come faccio io con Antonello, provo sempre a aggiustare la macchina e poi dico, passerò, ma ci sentiamo per radio, e non mi bago mai. Allora, scala 20, ora, 10 watt a questa radio. No, bugia. Scala 20, 5 watt. 5 watt, normale. E poi non usai il WC. Allora ti fai un po' di amici. Ma scusate, vuole in PEP o in AVG? Sto di là, quello ne sa un po' più di me. Ma il Rosmetter lo stai usando. Cosa mi pensi tu? Io non lo so. Ma di cosa stiamo parlando? Dell'apparato o del Rosmetter Vora? No, Rosmetter, io ho il diamo dell'SX200, quello che fa l'HF e VHF. Vuole in PEP, allora ce lo metto UG, allora in PEP mi dà 10 watt, ce lo metto in AVG mi dà 5 watt. No, non sai che io quello non ce l'ho neanche presente, non so come avete fatto su Rosmetter. Perché a livello di Rosmetter TQC, quel TQC è anni che non ce l'avevo prima, tanti anni fa, quel ZG, e poi non ho più avuto perché di solito ce l'avevo nell'apparato. Ma io c'è qualcuno che me lo sai, non l'ho comprato da Dito BFP e AVG. Come sto scendo? 1-0-4-5-6, guarda. Orecchie. Satura. Satura? Passa un po' la preamplificazione. Ora. va bene. Quasi incomprensibile. E adesso va bene? Adesso un po' meglio, però se lo abbassi un altro pochettino forse va ancora meglio. Abbassato, è vero. Sotto a tutti comunque. Adesso va meglio, almeno si capisce. Se no prima era proprio gracchiare, proprio era incomprensibile. Carlo, buonasera. Buonasera, incazzato sono, Nero. Come mai? È andata via la corrente, ho scoperto che ho la caldaietta del gas rotta e deve essere in corto qualcosa e quindi mi faceva scattare il salvavita. Ah, vabbè. E quindi sei senza gas, senza acqua calda. Oh, mamma. Ho chiamato l'assistenza, dovrebbero arrivare domattina. Ho controllato lo scontrino e 2 anni di garanzia scadono a febbraio. Ma adesso trovano l'inghippo, sbalzi in corrente, quello, quell'altro, qua. E te la fanno pagare, se vedrai. Sono già visti. Dai, Antonello. Dai, caro, tu sì che mi camminevi. Ma io sono visto da extraterrestre che fai? Sono un Gabri. No, sto dicendo Antonello Porto Torres. Ehi, ciao, buonasera a tutti. Ripeto un attimino, oggi sto muovendo una cosa al volo. Capo, bianco un attimo per me. Antonio, vai pure. Ho detto bianco un attimo per me. Aspetta un secondo. Vabbè, si sente la ventola dell'alimentatore quando parla. Si sente Antonella, la ventola anche forte. Sì. Che fa senza alimentatore? Cosa si attende? Vabbè, l'ho messo a posto. A un certo punto, cosa devo fare? Si sente lo stesso. Ma fa culo, io pensavo cazzo che non si sentiva più, invece siamo uguali là. Se non stai usando il Galaxy? No, non sto usando il Galaxy io. Il Galaxy c'ho da mia sorella, piace a Dio, quindi... due case separate, due stazioni separate, ok, va bene, ho capito. Sì, lo che so io perché altro, guarda. Usalo tu, il stato meco, ho detto, perché devo fare un sacco di modifiche in casa e quindi a un certo punto non voglio avere problemi. Infatti ho sceso a casa sua e basta. Il giorno di Natale, per esattezza. E c'era lì. Ho capito, sì, buonasera di nuovo Claudio. Cazzo, mi sono avuto da Claudio. C'è nessuno che mi ascolta, cambio. Sì, avanti. Sì, come state, c'è nessuno? Avanti. Ecco, mi stavo intromettendo, sono Tony, era per farvi un saluto al volo e vi ho sentito ora. È uguale, non fa niente. Ascolta, devi ripetere perché prima non uscivi di radio, prova a ripetere adesso, Antonio mi è sembrato di capire, ma prova di nuovo. Sono io, sono Tony, è che ho dovuto cambiare l'antenna, non ho più la turbo, ho messo quella più piccola e sto aspettando la nuova, copiato? Roger, Santiago 9 qua, quartiere Luna e Sole, radio 4 adesso. Sì, no, io sono su Viale Dante. 9:10 qua. Santiago 0, Radio 0 a Porto Torres. Prova a vedere, Tony, scusa. Prova, mi sentite? Non ho la turbo, ho l'antenna normale, la turbo l'ho tolta per un attimo. 9:20 Radio 5. E ti sembra? Cappa, qua stai arrivando forte. Zona Sassari Vecchio, dai. Zona Consovicco. Ma questo qua ti arrivi? Stavo provando un pochettino. Grazie. Kappa, tu come mi ricevi? Ricevo forte e chiaro, benissimo, pure essendo in movimento. Kappa, no, qua sei fortissimo di segnale, sei molto molto molto forte. Kappa, Antonio da questa, Antonio Bombo. Ok, continuate, ci sentiamo dopo. Guarda, Pronto? Parlo. Avanti, avanti Eugenio. Questo, dove stavo durando questo contratto? Ora era a Sassari, adesso l'ultimo passaggio che ha fatto mi arrivava a 9:30 ed era in Viale Dante Alto, però era in barra mobile, capito? Scusa Eugenio, che stavo parlando con lui, abbiamo parlato in due. Ti stavo dicendo, se gli hai dato il microfono a Carlo, ciao, buonasera. Sì. Oh, Claudio. Sì. Ah, vabbè, ti volevo dire quello, dai. Ciao Carlo, stanno nazionale, ciao anche Antonio, buonasera a tutti, se ci siete, dopo altrimenti alle prossime, ciao ciao. Ciao Carlo, ciao ciao, quando vuoi fare fuori quello avvisami, ciao. Devo fare un altro, pensavo mi avessi capito. Capito, io ho provato e trovo, ma tu mi devi dare l'altro fino a quando provi questo. Però quello non lo vendo io. Io posso fare un cambio, dare quello e per un altro. Però se no rimango senza microfono, devo acquistarne un altro, capito? E ce l'ho tutti di linea i microfoni io, come piace a te. Va bene, dai, vi lascio che vado a cenare, ci sentiamo, ok? Piuttosto Eugenio, il segnale è salito il mio che ho tirato sull'antenna? Sì, è salito. Sì, a 9 diciamo. Va bene, allora ottimo per la truppola. Allora non te ne dico neanche perché stai toccando il 60 adesso, prima di a 40 adesso sia 60. Queste antenne sono una cosa spaventosa veramente. E ripasso il cambio, Carlo, vi saluto tutti e vado a cenare, ciao ciao. Sì, a buona carica, ci sentiamo più tardi se siamo ancora in radio, volentieri. Avanti, chi c'era? Antonello, con questa ventola che sembra un trattore, prova a modulare. No, scusate un attimo, io vado andare a cenare, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao Eugenio, a più tardi al limite. Ciao Eugenio, ciao Claudio, alla prossima, adesso... Vabbè, la ventola è normale, la verità, il coso suo è questo. Quindi di più non cosa fare, cosa è? Sente forte, capito Antone, ma cosa è? Un alimentatore staccato dalla radio oppure tutto un modulo? Staccato, non ti preoccupare. E cosa c'hai? Il microfono con la preamplificazione, prova a passargliela del tutto a vedere. Aspetta, adesso guarda un po', vuoi te? Risalta più la tua voce e la ventola si sente comunque abbastanza, ma di meno rispetto a prima. Invece con la amplificazione diciamo è proprio, si sente forte. Capito, vabbè, domani mattina insomma vediamo questione di fare il servizietto. Poi Antonio, ti posso chiedere una cosa e una cortesia se puoi, qua, con calma e ovviamente con la dovuta tua sapienza. Dimmi. Oh, siccome ho acquistato un microfono da tavolo, però non ha lo spinotto, capito? E quindi mi hanno detto che tu sei bravo a saldarlo, a metterlo a posto. Quando hai tempo gliela puoi dare un'occhiata? Certo che lo posso fare, già lo sai. Dimmelo tu. Praticamente è un microfono che ho preso oggi, me l'ha dato Eugenio, è nuovo, però non è stato mai collegato lo spinotto che devo acquistare. Domani se lo trovo alla GBC o da Fusaro me lo prendo. Praticamente ci vuole uno spinotto a 4 pin, anche se la mia radio ne ha 6, ovviamente dovremmo lasciarne scollegati 2. Però penso che si possa mettere, poi ti farò magari anche avere la situazione dei pin della mia radio e quelli del microfono, così lo vedi tu e vediamo cosa si può fare. C'è bisogno, tu fai avere solamente lo spinotto, a questo punto poi già ci penso io. Ok, poi magari già ti faccio anche le foto della posizione dei pin della mia radio, capito? Se no non mi costa niente, la stacco e te la porto e così vedi tu. C'ho anche il libretto dove c'è scritto tutto, a cosa corrisponde il pin 1, il 2, il 3, il 4, eccetera, eccetera. Che mi serve solamente quello, non mi serve altro. Vabbè, adesso quando recupero lo spinotto poi già ti faccio sapere, tanto non è che ho fretta, no? Anche se si fa tra una settimana, 15 giorni, non è una cosa, tu con tutta la calma del mondo, ho capito? Sì, d'accordo, non c'è problema per quello, poi ci mancherebbe. La verità non ho mai fatto, anche se penso non sia difficile, però a questo punto è meglio avvalersi di una persona esperta che di queste cose ne ha fatto più di una e forse è meglio l'esperienza piuttosto che stare a romperti il cervello, capito Antone? E appunto per quello, diavolaggio, io non ti preoccupare. Casomai già ti chiamo al telefono, ti mando un messaggio e quando sono pronto non mi costa niente, lo metto tutto in una bustina e me lo lascio in macchina e quando ti viene bene me lo dici, passo, così ci beviamo una birretta e te lo lascio, capito? Sì, d'accordo, non c'è problema per quello. Sono qua, sono a casa, lo sai. Via, chi c'è oltre noi due? Claudio è andato a cena e Eugenio lo stesso. Poi c'era Luca che ho sentito prima e non so se sia ancora in radio. Aspetta che proviamo a rilanciarlo. Ci sei ancora Luca? Luca, non c'è, io entro, vi saluto dove vado. Ciao, ciao Franco, ciao anche a ciao Carlo, ciao Antonello e per me quello che ti vi stavo ascoltando che stavo facendo un piccolo tabacco. Ok, Antonio riprendi, quello ti prende, ciao. Ciao Marisa, ciao a tutti. Mi sentite anche a te. Adesso ogni mattina forse lavoriamo assieme, forse. Non ti voglio dire niente adesso perché in caso meglio niente, ma comunque ogni mattina forse lo saprò. Ok, non c'è problema Antonio, lo sai, là, non c'è problema. Ok, stacca la cacchio di ventola e mi stai soldando con quella ventola. Ok, ma la commissione non l'hai fatta, là? Non ho avuto tempo? No, stavo pensando applicato poi con la cosa di oggi, capito? Quindi a un certo punto. Pensiamo domani più che altro, no, là è a mezzogiorno, speriamo bene, non mi sembra vero, se accettano una cosa, guarda, siamo colleghi, siamo, lo sto dicendo io. Ok, meglio così, dai, speriamo, sono al 100%, Antone, al 100%. Ok, ciao Antone, ci sentiamo domani se in caso, va. Ciao Carlo, ciao a tutti le SVL, ciao a tutti, ciao. Eccomi qua, sono ritornato, ciao Mari. Sicuro. Caro, quindi sei rientrato, hai cenato già? No, stavo girando roba al forno, ciao Antonio. Oh, ciao Cla, cosa che va giù tra la mente? Quest'estate c'ho un'idea, ciò. Quando ci vediamo, me lo dici e vediamo che idea è, se si può realizzare, la facciamo. Scappa. Ce l'ho messo in testa, ce l'ho. Da voi, e si senti lì dai nomi. C'ho una mezza idea, ciò. Tu mi metti questa antenna, se lo metti questa. Vabbè, comunque, quando poi ci vediamo, me lo dici, qual è questa tua idea? Cosa c'è Antonio? Da dove devi andare? Collega di chi vuoi essere? Collega mio, io sono in pensione. No, non puoi essere collega mio. Io no! Non sei già mica collega tuo, no? Collega nel comune, non per altro, no? Collega in comune? Benvenga Antonio, te lo auguro con tutto il cuore, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, io ce l'ho, adesso date voi, così a me mi pagano di più. Prego, caro. Già, però credo, io ancora me ne devo zappare almeno 7-8 anni. Piano piano speriamo di arrivarci senza troppa fatica, Claudio. Ora manco te ne accorgi, questo è il terzo anno per me, manco te ne accorgi. Assolutamente, manco te ne accorgi, già passano in fretta. Piano, se svegliamo. Salutiamo la mattina, Melocchio ha convocato, speriamo che vada tutto bene, se no pazienza, altro non posso fare. E io conosciamo su di ma non vogliamo accavare, se va bene sono contento, se va male ci rabbiglieremo come le posso amare. Appunto per quello, quindi io, grazie a Dio, sono tranquillo. La voglia ce l'ho, quindi adesso vediamo un pochettino, no? Speriamo tutto bene. Capa, vediamo. Senti, è meglio per te. Almeno credo sì. A vedere un ballo, mi sta anche bene. Quello che ho, mi sta anche bene, la verità. C'ho tutto, non manca niente. Vedo un ballo, c'ho tutto, non manca niente. Qualifica quello che è. Passo, siamo in terra comune, non manca nulla. Di poco, ma già ti sento. Guarda, sono già agitato. Per domani è mezzogiorno, guarda la verità. Come si dice? Ansioso, hai capito? Sono ansioso anch'io. Avanti Carlo. Stavo facendo una prova con Claudio e tutto lì. Allora Antonio, no, non fare cose turche con queste idee. Stavo pensando a cosa stavo. Ma di trasferimento Antonio, di stare sempre lì e cambiare quella cosa là. Stavo pensando di mettermi la cipolla. Già si può mettere lì, ti ho detto, già si può mettere. Non so pensare che hanno tratto l'ambarava. Perché lì la puoi mettere bassa, capito? Essendo alta l'antenna, ma bisogna rimettere grandi pali. Un palo solo che esca il direttore dal muretto e basta. E allora già dovrò rivolgere a tutti. Scappa! Già c'è un po' di così, ma diciamo ci si può guizza. Non sai che tratto il bambino, tratto qualche volta. Chi su già troppe volte già. Io gli dico un saluto una sera al bambino, non ti preoccupare. Se no, quasi non è più 20 antocchi, ha trovato delle varie. E quella radio la conosco molto bene io. Te l'ho detto, va molto bene quelle cose lì. Una semplice però efficace, sto cercando di convincere a Carletto se ci riesco a prendersi una di queste, ma adesso vediamo, nell'arco dell'anno vediamo se riusciamo a fargliela comprare una. Vabbè. E almeno c'ha una radio seria, c'ha più watt, c'ha più ricezione, c'ha tutto, capito? Non si annoia, può ascoltare anche l'HF, però tanto per Carlo sarebbe una bella cosa. Ma io non vado mai che si rubi, no? Non mi interessa. E io, giusto per fare qualcosa, niente di particolare. Oggi andiamo a mangiare, è andato? Sì, è andato a cena, ha detto che nel caso ci saremmo sentiti dopo. Oggi mi ha dato il microfono, l'MB+4, però è senza spinotto, ma l'ho detto a Antonello quando ha tempo, già me lo collega lui lo spinotto a quattro poli. Antonello te lo fa, le porti la radio e il microfono, Antonello è un professionista di queste cose. Tanto devi usare quattro fili solo, anche se il connettore ha 6. Tu devi mettere il connettore a 6 però non a 4, tu lo metti a 6 ma ne usi solo 4 e fini, già lo Santonello, tutto era tre. Auga, io ho parlato di quei microfoni. Allora Antonio, li elimini da un app che c'è l'alimentazione, quindi li elimini e li colleghi 4 fili, PTP. accettiamo la trasmissione, il microfono sta andando. E appunto per quello, chiamalo di codo, non ti preoccupare. Ma stavo pensando adesso. Aspetta. Vabbè, minuto pensiero, va. Te lo dico dopo, là. Dammi 5 minuti e poi te lo dico. Cosa voglio fare? Se tutto va bene, installo la terra nuova e anche gli apparati nuovi. Non me la fottuta. Cazzo, se ti metti cazzo di radiare, ma con quella 50 vedere la Siria, cazzo, è allucinante, ma veramente bella quell'antenna. L'ultimo di assilio che l'ho fatto, visto hai? C'ha 7 metri di radiali e più c'ha e 3 quarti d'onda, figurati tu. E costa 98 euro, non costa neanche molto. Se funziona bene, perché no, non usarla. Aspetta, se funziona bene, non è grande. Quanto va di radiali? E mi salvo quella. Quanto c'ha di radiali, scusa? 7 metri. 4 radiali da 7 metri duro. E 3 quarti d'onda. Quindi sono compro un bel con l'antenna. Ora male, come ti va a punizione un'altra cubicciuria? È enorme. Lo so, infatti, qui va bene, ma da te penso di no. Perché da te minimo tocca il tetto. Ma a me va bene anche un minimo, comparo al centro di un giardino e apro tutto. Allora in alto ti pongo un palone e faccio la barracca. Ah no, per me è buona quella là, radiali a me no, per me è buona quella la cosa, la Smart Tech per me. E sono convinto che quella è l'antenna migliore delle altre, cioè è una tra le migliori. Se conosce ti ottavi alla sua storia. Ma perché c'è una ricezione, io sono Renato, di la Carlo Renato, proprio QRM, arriva fortissimo, cazzo, a tutte le parole. Io ho tirato su di 2 metri, mi... solo di 2 metri, guarda cos'è già salito il segnale. Ma gente che le mette la tua